strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Intervento dell'Unione Europea sulla omologazione delle auto. Dal 1 settembre sono in vigore le nuove norme per il controllo e la sicurezza delle vetture vendute in tutta l'Unione. L'azione della UE prevede controlli più severi e pugno di ferro contro i costruttori in caso di irregolarità. Le verifiche potranno essere effettuate anche su modelli già in commercio, con almeno un controllo ogni 40.000 auto immatricolate che verifichi la portata delle emissioni ma anche la sicurezza. Porsche Italia, a sostegno delle famiglie colpite dal Covid, la filiale italiana della casa di Stoccarda ha devoluto attraverso la campagna Uniti per ripartire 1,3 milioni di euro a 26 Caritas diocesane. Per ogni vettura consegnata dal 1 giugno al 10 agosto, infatti, le concessionarie hanno devoluto all'organizzazione caritatevole di competenza della propria zona una somma scelta dal cliente e poi raddoppiata da Porsche. La somma raccolta, di cui hanno beneficiato circa 30.000 famiglie, è destinata a combattere la povertà alimentare ed educativa che la pandemia ha contribuito a peggiorare. PSA e Total, insieme per produrre batterie, il gruppo automobilistico e il colosso energetico hanno ufficializzato la creazione della joint venture Automotive Cells Company, che produrrà batterie ad alte prestazioni in Francia e Germania a partire dal 2023, per rifornire appunto il settore delle auto elettriche. Secondo le prime stime, il progetto, che richiederà oltre 5 miliardi di investimenti, di cui 1,3 provenienti da finanziamenti statali francesi e tedeschi, garantirà la fornitura per 1 milione di veicoli elettrici all'anno. Management italiano e riorganizzazione per Renault. Il CEO del colosso francese, Luca De Meo, ha annunciato un nuovo assetto organizzativo che si concentrerà sui marchi e non più sulle aree geografiche. Grande attenzione sarà riservata al marchio Renault, supervisionato direttamente da Luca De Meo, con divisioni separate per i brand Dacia e Alpine. A queste tre divisioni si aggiunge poi il nuovo ramo New Mobilities, che si occuperà di temi come il car sharing e la guida autonoma. Novità anche nelle competizioni: dal 2021 il gruppo parteciperà in Formula 1 con il nome di Alpine Formula 1 Team, rebranding dell'attuale Renault Formula 1. Cambiamo argomento, parliamo di noleggio auto. Ne abbiamo parlato qualche mese fa in pieno lockdown e si trattava di un mercato che era sostanzialmente fermo a causa del blocco delle attività. Per fortuna c'è stata anche una lieve ripresa ed oggi cerchiamo di capire come sta andando in compagnia del nostro ospite, che è Massimiliano Archiapatti, presidente di ANIASA, che è l'associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera e grazie dell'invito. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire come sono andati questi mesi estivi. Voi avete il dato del secondo trimestre, quello che si esauriva a fine giugno, poi magari ci darà anche una percezione di come sono andati luglio ed agosto. Sì, assolutamente, possiamo tracciare la performance durante i mesi che vanno da aprile a giugno con un dato molto puntuale, sia per quello che riguarda il noleggio a lungo termine, che era quello che ci aspettavamo soffrisse meno. In effetti il risultato è di un meno 5,9 verso lo scorso anno, mentre invece, ahimè, dato drammatico per quello che riguarda il noleggio a breve termine, che non avendo il turismo scende nel periodo che va da aprile a giugno compreso del 75,4%. Che era un dato che vi aspettavate sostanzialmente? Ma purtroppo sì, avevamo dato tutti i segnali di allarme nel momento in cui erano partite le prime restrizioni alla mobilità e la riduzione del turismo. Purtroppo questo si è anche riflesso nei mesi successivi, quindi nel mese di luglio ed agosto sicuramente abbiamo avuto la possibilità di apprezzare il turismo domestico, ma sono completamente mancati sia il turismo europeo sia il turismo internazionale di lunga tratta, per intenderci gli americani e simili paesi, che hanno portato una riduzione molto importante del nostro fatturato. Parliamo comunque in un intorno di un meno 65% rispetto, certo, allo scorso anno. Ecco, luglio e agosto hanno sicuramente segnato qualche lieve segnale di ripresa rispetto al al secondo trimestre. Quali sono le aspettative invece per i prossimi mesi da qui a fine anno? Ma allora, il periodo che abbiamo davanti a noi è un periodo, chiamiamolo così, più commerciale, e quindi dove il turismo impatterà di meno. Siamo quindi fiduciosi che qualche segnale di ripresa dell'economia possa aiutarci a recuperare una quota di attività anche sul noleggio a breve termine. Sul noleggio a lungo termine ci aspettiamo invece che ci possa esserci una ripresa dopo il rallentamento subito nel corso dell'ultimo periodo. Ecco, questa crisi del breve termine ha delle ripercussioni sulla clientela in termini di disponibilità delle auto, in termini di costi? Ma sicuramente la disponibilità delle auto è stata preparata in funzione dei volumi attesi. Non è un caso che il noleggio a breve termine abbia perso nel corso di dei mesi sia di lockdown, ma anche se consideriamo i primi sei mesi dell'anno, migliaia e migliaia di vetture. Il totale del segmento è meno 150.000 veicoli, quindi è chiaro che la flotta si è ridotta sostanzialmente. I prezzi sono stati sicuramente abbastanza stabile, abbiamo visto degli incrementi soltanto nelle aree particolarmente, chiamiamole così, ricercate dai turisti italiani, quindi qualche aumento è stato rilevato in Sicilia o in Sardegna, ma nulla di così significativo. Certo, tra l'altro il noleggio a breve termine sta soffrendo anche un altro problema abbastanza drammatico, quello dei furti d'auto, che sono arrivati a dei livelli davvero insostenibili. Cosa sta succedendo e perché questo tipo di autovettura è così, come dire, appetibile per i ladri? Ma sicuramente c'è una attenzione particolare da parte dei ladri, e mi spiace, alle nostre flotte. Il motivo è legato sicuramente alla gioventù dei veicoli. Qui parliamo sia di vetture che di furgoni, considerando che lo scorso anno abbiamo subito 1.800 furti soltanto per il noleggio a breve termine, che corrispondono a circa 12 milioni di valore per i danni subiti dalle aziende del noleggio. C'è un focus sicuramente elevato anche per la tipologia di allestimento che le nostre vetture hanno, quindi sia per i ricambi sia per una parte specifica, ad esempio di quello che viene chiamato l'infotainment di bordo, quindi navigatore o sistemi appunto di musicali, chiamiamoli così, o di connessione, sono un target molto appetibile per i ladri. E questo malgrado l'attenzione che come aziende stiamo avendo su questo fenomeno da diversi anni, con voglio ricordarlo, una attivazione su quasi la totalità del parco a noleggio di strumenti di antifurto o di localizzazione, che consentono comunque una quota di recupero importante, ma ahimè non evitano completamente i danni. Ecco, cosa sarebbe possibile fare? Quali procedure bisognerebbe attivare per cercare di mitigare questo fenomeno, che ovviamente provoca un ulteriore danno a chi fa questo tipo di attività? Ma sicuramente ci aspettiamo di poter aumentare ulteriormente la collaborazione con le forze dell'ordine innanzitutto. Sicuramente i contatti sono molto stretti e ci aiutano spesso appunto in modo molto proattivo a effettuare i recuperi. È chiaro anche che ci aspettiamo, e questo è un fenomeno per il quale richiediamo la collaborazione dei nostri clienti. È chiaro che le aziende si muovono per segnalare purtroppo la particolarità del mercato italiano. Ricordo, siamo i peggiori in Europa in termini di penetrazione di furti sulle auto a noleggio, e quindi chiediamo ai clienti di collaborare con noi ricoverando le auto in posti sicuri, possibilmente al chiuso, quando è possibile. Questo sicuramente è un aiuto deterrente, che possiamo, certo, chiedere, assolutamente sì. Siamo in chiusura, però c'è tempo per un'ultima battuta sul mercato delle auto, un mercato che si è leggermente ripreso. Agosto ha chiuso più o meno con gli stessi numeri dello scorso anno, grazie anche agli incentivi. Quello che manca, a detta anche delle case costruttrici, è ancora un intervento importante sulle cosiddette cosiddette auto aziendali, perché lo dobbiamo ricordare, lo facciamo spesso nel corso della nostra trasmissione, che l'Italia è un fanalino di coda in Europa su questo tema. Perché? Ma è sicuramente un tema molto significativo. Come associazione lo abbiamo ricordato e lo ricordiamo anche in questa occasione con un grande con grande enfasi. Anche soltanto parlare della detraibilità IVA significa evidenziare una distanza enorme rispetto ai nostri paesi, chiamiamoli così, vicini e competitor. In Italia la detraibilità è soltanto del 40%, in Spagna, Francia e Germania è invece il 100%. Questo dà un'indicazione di qual è la mancata competitività dell'auto aziendale per il nostro paese. Aggiungo pure che questo ha un impatto significativo sul noleggio, che è di per sé all'interno dell'automotive un settore con dei superpoteri green, e voglio sottolinearlo perché è importante ricordare che le nostre vetture innanzitutto sono tutte Euro 6 e quindi sono decisamente meno impattanti in termini di sostenibilità rispetto ai 28 milioni di veicoli ante Euro 6 che sono presenti nel nostro circolante, che è il secondo più vecchio d'Europa dopo quello greco. E questi superpoteri si esplicano non soltanto nel periodo nel quale sono all'interno del nostro ciclo di produzione, togliendo vetture private dal mercato, ma addirittura a fine ciclo, mantenendo la stessa bontà in termini di sostenibilità e sicurezza con la vendita dell'usato. Ed è il motivo per il quale abbiamo chiesto al governo un'attenzione in questa fase economica particolare, con un'incentivazione della vendita usato in modo da consentire un rinnovo del parco circolante, che appunto, ripeto, risulta essere ancora in Italia un elemento fondamentale. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Massimiliano Archiapatti, presidente di ANIASA. Ci sentiamo per la seconda parte di Strade e Motori tra pochi minuti. Parleremo ancora di mercato dell'auto, di incentivi, ma anche di alcune problematiche che stanno emergendo, come ad esempio quelle legate alla targa prova, in compagnia di Michele Crisci, presidente di UNRAE. A tra poco. Contenti gli insegnanti, pur fra mille preoccupazioni. Bellissimo. Cioè, devo dire, rivederli, ho detto, meno male, allora la scuola ha un senso. Contenti gli studenti, anche se seduti al banco con la mascherina. Sicuramente qualcosa di diverso, ma un'emozione rivedere i miei compagni. Nella didattica a distanza quello che non ci ha permesso era lo stare insieme fisicamente. Molto più bello, secondo me, ritornare in classe rispetto ovviamente alla didattica a distanza, però, vabbè, è stato appunto necessario. E contenti anche i dirigenti scolastici, alle prese con una sfida senza precedenti. Sì, è stato bello rivederli, siamo contenti, perché la scuola senza studenti è una carcassa vuota, è assolutamente abbastanza inutile. Radio Day, lunedì 14 settembre. Nei GR e nei programmi le voci dalle regioni in cui suonerà la campanella. Una ripartenza con tante incertezze, ma che rappresenta anche un'opportunità per fondare una nuova scuola. Appuntamento il 14 settembre su Radio 24. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del primo appuntamento, cerchiamo di approfondire un po' le tematiche legate al mercato in questa seconda parte. Come è andato lo scorso mese di agosto, ma a che punto sono soprattutto gli incentivi? Lo facciamo in compagnia del nostro ospite, che è Michele Crisci, presidente di UNRAE. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, cominciamo con il dato di mercato, ma tra un po' parleremo anche di incentivi, perché ormai sono agli sgoccioli, anzi probabilmente mentre stiamo andando in onda sono già terminati, ma di questo parleremo tra poco. Però facciamo un passo indietro, vediamo un attimo come è andato il mercato ad agosto. Un dato sicuramente significativo, perché abbiamo sicuramente frenato la caduta e abbiamo forse recuperato qualcosa. Sì, è stata la fine di una emorragia pesante che è cominciata nel mese di marzo. Insomma, i dati purtroppo sono ormai molto ben noti. Il mercato ha perso nei primi sette mesi, quindi fino a luglio, ha perso oltre 500.000 unità rispetto al 2019. Agosto ha iniziato a mostrare insomma i primi segni della fine di questo declino impressionante, sostanzialmente pareggiando il dato dell'agosto dell'anno scorso. C'è stata una lievissima perdita dello 0,4%, ma parliamo di poche unità. Ovviamente è un segnale interessante. Io lo interpreto in due direzioni. Il primo sicuramente che gli incentivi di cui poi parleremo stanno funzionando così come avevamo auspicato e così come ci eravamo sbilanciati, oltre che sbilanciati con il governo. E dall'altra parte sicuramente la riapertura che è avvenuta dopo il lockdown delle varie fabbriche, dei concessionari e quindi la messa a terra di tutte quelle vetture che nel frattempo non erano state contrattate prima del lockdown ha comportato anche piano piano, insomma, che nel mese di agosto, dove i concessionari, va anche questo detto, sono rimasti aperti tutto il tempo, ha portato a un dato di immatricolato, dicevo, interessante, perché comunque per la prima volta abbiamo impattato il dato di un mese dell'anno scorso. Quindi da questo punto di vista si può iniziare a, come dire, a respirare un pochino. E adesso vedremo settembre, perché settembre sarà chiamato a confermare questo dato. Settembre è partito bene, quindi vediamo cosa succederà. Sarà importante cercare di limitare il più possibile la perdita, o perlomeno fermarla intorno alle 500.000 unità rispetto all'anno scorso, perché l'impatto comunque sarà devastante sia in termini per le aziende, quindi dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista di redditività, ma anche, ricordiamoci sempre, da un punto di vista di gettito fiscale per lo Stato. Certo, ecco, dal punto di vista occupazionale, tra l'altro voglio anche ricordare la durissima presa di posizione del segretario della FIOM di qualche giorno fa, che a difesa del milione di lavoratori del settore dell'automotive chiedeva interventi ancora più radicali rispetto a quello degli incentivi. Ecco, a proposito di incentivi, sicuramente hanno influito pesantemente anche sui numeri di agosto, però c'è un però, questi incentivi ormai stanno finendo, mentre stiamo parlando restano pochi milioni, probabilmente il tempo di andare in onda e questi pochi milioni saranno terminati, e poi cosa succede? Ma dunque, per la precisione, restano pochi milioni su una fascia. Come sappiamo tutti, il governo col decreto di agosto ha deciso di introdurre una quarta fascia, perché nel decreto di luglio, poi convertito in legge, nel decreto convertito in legge in luglio, in realtà c'erano tre fasce: la famosa 0,20, ci riferiamo alla CO2, 0,20, sì. 21,60 e 61,110. E questa rottamazione, diciamo, questa campagna di rottamazione era stata finanziata solo con 50 milioni, ma questo lo sapevamo tutti, l'emendamento Benamati era un emendamento che serviva per fare convertire in legge il decreto, e i 50 milioni erano un finanziamento appunto che aveva quell'obiettivo, cioè della conversione in legge. A quel punto è arrivato il rifinanziamento con circa 500 milioni, di cui 400 sono stati realmente messi a fondo, mentre invece 100 sono ancora inutilizzati. Il problema è che questi 400 sono andati a rifinanziare questi incentivi, però creando un'ulteriore fascia, quindi dividendo la 61-110 in due fasce, 61-90 e 91-110, ma soprattutto sono stati creati dei cluster in termini di fondi, per cui oggi abbiamo paradossalmente i fondi messi a disposizione delle prime due fasce, quindi 0-60, che sono particolarmente quasi tutti inutilizzati, così come i fondi messi a disposizione della nuova fascia 61-90 sono praticamente inutilizzati. Quelli che stanno andando in esaurimento sono quelli della fascia 91-110, cosa che era prevedibile, perché si tratta della fascia più numerosa in termini di auto. Ovviamente è anche quella più appetibile per il grande pubblico, anche da un punto di vista economico. Quindi la soluzione quale potrebbe essere? Quello di trasferire dei fondi su questa ultima fascia? Le soluzioni sarebbero, pensiamo, due. La prima è quella di utilizzare immediatamente i 100 milioni non utilizzati, ma stanziati dal decreto, e metterli a disposizione delle fasce. La seconda soluzione, che è quella urgentissima, per cui capisco che si debba aspettare la conversione in legge, ma questa avverrà in ottobre, e quindi il dramma è che da adesso, quando si esaurisce l'ultima fascia, fino ad ottobre praticamente si ferma il mercato. Quindi quello che sarebbe da fare immediatamente è di abolire questi cluster e fare in modo che a fronte delle fasce di CO2 ci siano incentivi diversi, ma i fondi a disposizione siano liberi. Certo. Questo non potrebbe portare invece ad una, come dire, maggiore incentivazione delle prime fasce, quelle che, mi rendo conto, sono quelle ambientalmente più interessanti, ma sono anche quelle probabilmente più costose? Ma sicuramente questo era l'intendimento del legislatore. Io immagino che creare dei fondi chiusi per fascia fosse quello anche di indirizzare un po' il mercato. Il punto fondamentale è che intanto è molto difficile indirizzare il mercato, ci sono meno vetture disponibili, sono soprattutto nella fascia 0,60 più costose, meno accessibili, e quindi il rischio è che questi soldi restino inutilizzati. Quindi il nostro suggerimento urgente è, come dicevo prima, rendere liberi i cluster con i fondi disponibili, sceglierà il mercato. E intanto far andare avanti in qualche modo il mercato, sì, certo. In ogni caso le fasce identificate di CO2 sono fasce tutte come dire virtuose, quindi riuscire a rottamare delle macchine a fronte di acquisire una vettura nuova in qualsiasi di queste quattro fasce avrà un grande beneficio sull'ambiente. Certo. Come sta andando, al di là degli incentivi, invece il mercato legato a queste fasce più virtuose, e cioè la vettura puramente elettrica, sta avendo successo in Italia o ci sono ancora delle resistenze? No, allora, in realtà in termini relativi, quindi se andiamo a guardare le crescite che questi segmenti stanno avendo, sono crescite molto interessanti. In termini assoluti ovviamente stiamo invece parlando di numeri molto, molto piccoli. Tenga conto che se noi consideriamo la fascia delle auto full elettriche più la fascia delle auto ibride plug-in, quelle comunque ricaricabili col cavo, stiamo parlando del 2,5-2,8 del mercato, quindi valori veramente molto, molto piccoli. Il tasso di crescita è rapido, è veloce, però partendo da numeri molto piccoli ovviamente si fa fatica. Le resistenze da parte dei clienti sono essenzialmente due. La prima sicuramente, e questa verrà abbastanza velocemente risolta, soprattutto nel 2021, il prezzo di queste vetture. Sono vetture che hanno dei costi altissimi in termini di produzione, quindi naturalmente anche i prezzi sul mercato sono, certo, molto più alti rispetto alle macchine endotermiche, comunque quelle tradizionali. E questo è il primo freno. Dicevo, verrà risolto perché comunque tutte le case stanno introducendo vetture diciamo più con prezzi più limitati anche in questa categoria di vetture, quindi questo potrà solo che far del bene alla diffusione di queste auto. L'altro freno molto grosso è naturalmente l'infrastruttura di ricarica. Tenga conto che se per una macchina ibrida plug-in con una batteria da 11 kW, da 7 kW e mezzo è sufficiente una colonnina, quelle che troviamo peraltro raramente, ma che insomma troviamo nelle nostre strade, nei comuni, nei supermercati, quindi colonnine da 11-22 kW, per le vetture full elettriche stanno arrivando, soprattutto per quelle di grandi dimensioni, quindi marchi, certo, diciamo, c'è bisogno di potenze maggiori, certo. C'è bisogno di potenze maggiori, c'è bisogno dei fast charge, come si chiamano, quindi colonnine da 50, 100, 150, 200 kW, e questi in Italia purtroppo mancano. Quindi è ovvio che soprattutto per coloro i quali la macchina la usano per esempio per lavorare, è avere una limitata, non tanto autonomia, ma una limitata possibilità di ricaricare l'auto per strada, sulle autostrade, ovunque ci si fermi, rappresenta un problema. Certo, sulle autostrade poi non ne parliamo perché lì c'è tutto, esatto, un tema legato all'infrastrutturazione, mentre le città bene o male si stanno muovendo, sulla rete infrastrutturale esterna probabilmente ci sono maggiori difficoltà. Bene, termina qui anche questa ultima parte di strade e motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Michele Crisci, presidente di Unrai, con cui abbiamo fatto un po' il punto della situazione del mercato. L'appuntamento con strade e motori torna come al solito sabato intorno alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.